Passerei dunque ora la parola a Ethan Bonali, attivista trans e non binary, formatore, blogger, saggista. Si occupa di divulgazione della cultura e dello studio della storia del movimento non binary dal 2014, attualmente consigliere dell'Associazione Libellule Italia PS con delega alle politiche dell'associazione. Si è occupato di analizzare il movimento gender critical all'interno delle dinamiche delle realtà anti-LGBT, con focus nei discorsi di odio verso le persone transgender. E anche qui cito il contributo al volume intitolato Rappresentare la violenza di genere, edito da Mimesis nel 2018, con il saggio La legittimità della vittima trans. Ti ringrazio per essere qua con noi. Ok, sì, mi sentite, vero? Sì. Intanto sono io che vi ringrazio e vi ringrazio di aver aperto ai cosiddetti saperi situati, perché danno l'opportunità di raggiungere probabilmente delle zone d'ombra che non possiamo permetterci di vedere da alcune posizioni. Quindi mi ha intervistato un giornalista ieri ed è stata una delle domande: qual è l'opportunità di questo incontro? Ho detto sicuramente all'interdisciplinarità che fa nascere nuovi spunti. Quindi io sono qui probabilmente grazie appunto a questa apertura. Quindi appunto rinnovo i miei ringraziamenti. Vado dritto al punto. Intanto apro, opla, sperando di presentazione. Ok, eccoci qua. Non so se sì, si vede correttamente. Vi parlerò delle microaggressioni, parlo di linguaggio e una delle domande che mi sono state fatte da questo giornalista è: ma il linguaggio è importante? Non abbiamo, ovviamente in maniera provocatoria, in maniera concordata, non abbiamo problemi, appunto, come diceva anche prima il professore, problemi più importanti, più urgenti, a parte che la risposta, e poi vi spiegherò, è un micro intervento contro una mica aggressione, perché quella l'espressione abbiamo altri problemi, oltre a spostare l'attenzione, è una microaggressione perché invalida la richiesta di una persona o di una minoranza. Quindi questo è fondamentale. Il micro intervento va fatto nel momento in cui avviene questa affermazione, perché altrimenti sfuma tutto, la microaggressione passa. E il mio microintervento solitamente riesco a pensare anche due cose in una volta, quindi è una battuta, quindi non crea tensione con la persona, perché probabilmente può anche aver detto quella frase non consapevolmente, in maniera strategica, per invalidare ciò che io sto dicendo, sto chiedendo, ma semplicemente perché questa è la mentalità di una certa popolazione, di una certa cultura. Quindi non creo pressione, ma la mia risposta interrompe quel pensiero e crea un'opportunità di consapevolezza. Un'altra domanda che mi è stata fatta appunto è perché le microaggressioni, su che cosa si basano appunto? Prima appunto di andare a parlarne in maniera puntuale con voi, voglio proprio spiegare il contesto in cui si impone questo tipo di studio, perché altrimenti vi sembrerà una sequenza di lamentele. È vero? Perché è una delle accuse o delle risposte che vengono date a una persona che fa notare: guarda, mi hai detto una cosa che mi ha offeso, sei troppo sensibile, oppure appunto cerco di ribaltarti in qualche modo la frittata. Ora andiamo a vedere. Il gomitolo è proprio, come dire, esplicativo della cosa, è una cosa complessa, è una cosa complicata, ed è per questo che ancora si fa molta difficoltà a riconoscere questa teoria, la teoria delle microaggressioni, perché non va innanzitutto, appunto, torno al politicamente corretto del professore, non è un'accusa verso qualcuno, dire mi hai detto qualcosa di offensivo. Nella comunicazione non violenta io ti sto comunicando un mio modo di sentire, non ti sto accusando di niente, quindi ti sto comunicando una necessità. Quindi questo è una cosa fondamentale, ma è una cosa molto complessa a cui la nostra cultura non è evidentemente abituata. Ed è necessario in quel momento andare a lavorare sulla struttura culturale del posto in cui mi trovo, ed è per questo che è estremamente, ci vuole una certa consapevolezza ed è purtroppo ancora un modo di ragionare estremamente raffinato per andare a individuare questi comportamenti, e va a colpire la parte più intima di una cultura e di una persona, a più livelli appunto stiamo lavorando, perché va a dire attenzione, c'è una cultura egemone che tu non stai vedendo, quindi c'è un discorso che nega molti altri discorsi che tu dai per scontato e quindi ha un carattere di invisibilità in un certo senso e di universalità. Queste sono le caratteristiche del discorso egemone, della cultura principale di un posto, di una nazione, di un gruppo di persone. E poi va a dire, attenzione, probabilmente tu vedi la mia segnalazione come una lamentela, perché a te non succede, perché non vedi il sistema che c'è dietro, uno, e perché forse tu hai dei privilegi. Sono due cose che non vogliamo sentirci dire. E quindi ci inventiamo tutta la polemica, perché è una strategia assolutamente di distrazione dal problema del politicamente corretto, di tante altre cose che ci siamo inventati, sono appunto, come diceva il professore, se andiamo poi a scavare, vediamo che queste teorie hanno poca sostanza, quindi sono solamente strategie linguistiche. Torniamo al gomitolo e alla complessità. Per comprendere le microaggressioni che io porterò ad esempio, dobbiamo avere presente il contesto, la struttura. Quindi dobbiamo avere un minimo presente la storia del movimento trans. Quindi come è emerso questo linguaggio? Il movimento trans sembra, una delle cose che dicono, è una moda, questa, cioè la politica dell'identità, la frammentazione, ognuno è speciale, è una moda. Questo perché? Perché la storia del movimento trans è apparentemente giovanissima, forse diciamo ne abbiamo tracce scritte degli ultimi 40 anni, se siamo fortunati, scritte proprio da persone trans, forse 20-30, ovviamente è una storia molto molto più lunga, e è una storia che è stata spessissimo distrutta. Uno degli esempi è il rogo dei nazisti alla clinica di Berlino, in cui abbiamo perso un capitale di studi sulla sessuologia, sull'identità di genere, ancora non si chiamava così ovviamente, e quindi in verità la storia del movimento trans ci viene a dire appunto che noi siamo dentro una cultura egemone, siamo dentro una società in cui ci sono persone che hanno un discorso, lo utilizzano il potere, quelli che del politically correct, che urlano dai maggiori media di essere silenziati, cosa stanno esercitando? Il potere di riscrivere la realtà. In un certo senso. Quindi perché è importante il linguaggio? Beh, ecco, perché informa la mia cultura, informa il mio modo di pensare, io da quello ovviamente di conseguenza agirò. Il discorso egemone, trovare le parole per comunicare. Quindi io ovviamente userò la parola minoranza, anche se non mi piace tantissimo, però da minoranza io sono consapevole di trovarmi all'interno di un discorso principale. Il discorso principale, il discorso egemone, non è a tutti i costi una cosa cattiva, ovviamente ha lati positivi e lati negativi, è anche creata per in qualche modo per individuarsi, questo non c'è ombra di dubbio. Ma appunto io da persona o da realtà che emerge, in qualche modo ho intanto la difficoltà di trovare le parole per farmi capire. E questo appunto è come e perché stiamo percependo un'emersione improvvisa del movimento T. Semplicemente il movimento trans nell'arco di decenni è riuscito a trovare parole e a renderle comprensibili al grande pubblico. La prima reazione di chi invece quel discorso egemone lo vuole mantenere è di indicarlo come tossina, quindi attenzione, è un pericolo. E quindi questo è un grande problema. Quindi trovare le parole per comunicare e quindi per esistere, quindi per fare anche delle richieste, questo è un problema e non lo sviscereremo oggi, ma in verità poi anche all'interno del movimento trans ci sono ulteriori problemi di identità che stanno emergendo, che stanno cercando le parole per comunicare la propria esistenza. Quindi discorso egemone, devo farmi capire, e dall'altra parte chi detiene il discorso egemone ha il potere e lo esercita invece di riscrivere la realtà. Ne abbiamo avuto tantissimi esempi, visto che parlo ovviamente di identità di genere oggi e di microaggressioni verso le persone trans. L'esempio che vi porto è quello della discussione del DDL Zan, in cui io penso che nessuna delle persone presenti abbia visto una persona trans in televisione o sui giornali o da qualche altra parte avere voce in capitolo, mentre per esempio sono state invitate delle giornaliste che fanno appunto parte del movimento Gender Critical, che apro una parentesi, chiudo una parentesi, in tantissimi report della comunità europea sono individuate come discorso di odio. Gender Critical è un discorso di odio, quindi attenzione, e sono andati, hanno avuto tranquillamente modalità di parlare e in qualche modo di etichettare alcuni tipi di richieste come eccessive, come trattamenti speciali e appunto tutto quello di cui abbiamo già parlato, fino addirittura a parlare di un'epidemia di transizioni, che poi durante il Covid è un colpo di genio assoluto parlare di epidemia. E quindi hanno usato il linguaggio in una determinata maniera, esercitando il potere di riscrivere la realtà su una minoranza. Quindi questo è il quadro, nel senso, quando parliamo di microaggressioni, la microaggressione è una teoria, è assolutamente una teoria, che individua alcuni comportamenti che il più delle volte sono inconsapevoli, comportamenti, espressioni del linguaggio, ma anche situazioni ambientali, di cui faremo alcuni esempi, che creano un ambiente ostile verso una determinata categoria di persone. Il lato innovativo e anche molto positivo della teoria, e uno dei motivi per cui è stata fortemente osteggiata, è che riconosce il potere della vittima di indicare di essere vittima. Non è una cosa che viene individuata dall'esterno, è la vittima che la denuncia. Quindi questa è intanto una grande invenzione, innovazione, scusate, bello il lapsus. Un'altra cosa molto importante, appunto, non essendo comunque una teoria e una struttura di pensiero che va a indicare una colpa, usciamo da questo tipo di mentalità, indica la presenza di una microaggressione anche se non c'è intenzione, perché noi siamo abituati a dire l'aggressione è con intenzione, quindi se io non l'ho fatto apposta sono innocente. Sì, certo, appunto. Se usciamo invece dal concetto di colpa e andiamo verso la consapevolezza, se io ti dico una cosa ti sto rendendo consapevole di tutto quello di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Quindi rendo visibile una cosa che probabilmente forse potrebbe non piacerti, ma ti rende consapevole. Vado avanti. Ok, appunto, che cos'è una microaggressione? Siamo negli anni 70. Sono sottili, sorprendenti, banali scambi quotidiani che trasmettono messaggi denigratori a un gruppo emarginato. Ora, vi parlerò anche di questa immagine, vi faccio un esempio meraviglioso della campagna delle primarie presidenziali del Partito Democratico del 2008. In un momento un cronista dice a Biden che Barack Obama si è candidato alle primarie. E Biden dice, è fantastico, cioè insomma, è il primo candidato afroamericano di tendenza, parla bene, è brillante, pulito e di bell'aspetto, è una favola. Subito dopo queste bellissime affermazioni, tutte positive, Biden fu attaccato dalla comunità afroamericana. Perché? E lui fu sorpreso, appunto l'inconsapevolezza delle microaggressioni, fu sorpreso perché diceva, ma io ho detto tutte cose positive. Quindi cosa ho fatto? Beh, lui si è mostrato sorpreso che una persona di colore fosse di bel aspetto, che parlasse bene, che fosse pulita. Quindi la cultura sottintesa, il pensiero sottinteso è che di solito le persone di colore non lo sono. Quindi è un razzismo inconsapevole. Tutti siamo immersi in questa cultura, quindi appunto non è una questione di colpa, è una questione di consapevolezza. Quello che invece vedete, l'immagine che vedete, è stata una campagna di Harvard in cui appunto questa ragazza sta dicendo: non sono qui per insegnarti a twerkare, proprio perché tra l'altro questa immagine è molto intersezionale, perché il twerkare ha per molti anche un aspetto di sessualizzazione. Quindi io sono una donna, non sono qui intanto per darti spettacolo, per essere un oggetto sessuale, in più la mia appartenenza etnica non c'entra niente con quello che io sto facendo qua. Quindi non mi devi connotare per questa cosa. Ok, qui forse non so se ve lo faccio vedere. Allora, questo è un piccolo video che è purtroppo in inglese, non l'ho trovato in italiano, quindi mi scuso in anticipo, che mostra però, ecco, le immagini sono assolutamente esplicative, mostra appunto che cosa vuol dire microaggressione. Vediamo se riusciamo a farlo partire. Col cavolo. Ho il ditino. Niente, ho annunciato una cosa e poi non la possiamo fare. E va bene. Ah, dici? No, è immagine. Chiedo scusa allora, ma... Ok, non è un problema. Tanto o altri, diciamo che andremo con degli esempi, quindi va benissimo così. Di cosa? Questa è una piccola grafica che ho elaborato. Qui però parliamo proprio di odio, in un certo senso, ma le microaggressioni hanno a che fare con questo, perché sono alla base di questa piramide. Sono proprio qui, forse anche prima in verità. Cioè danno il materiale per poi raggiungere la cima di questa piramide. E ci occuperemo della parte, sì, alla vostra destra, anche la mia, quella nascosta, perché appunto le microaggressioni involontarie sono ovviamente, fanno parte di una cultura che non vediamo, è il lato scuro della nostra cultura. Questa è ovviamente la piramide che riguarda l'odio verso le persone trans, e siamo proprio prima della base, perché diciamo le microaggressioni, che adesso poi vi spiego tra l'altro anche perché micro, non perché siano ininfluenti, ma perché riguardano l'ambiente in cui avvengono, ovvero è micro perché ha di solito a che fare con una vittima, chiamiamola così, è una persona che agisce la microaggressione, per questo si chiama micro, non perché sia poco importante, anche perché le conseguenze delle microaggressioni continue in verità sono anche molto gravi, le conseguenze sulla salute della persona che le subisce. Perché vi faccio vedere questa piramide? Proprio perché appunto una cultura che non è consapevole è un contenitore per le microaggressioni, e le microaggressioni lasciate dentro questo contenitore portano poi in cima a questa piramide, sia sulla parte destra in verità che sulla parte sinistra, ma a noi oggi interessa parlare della parte che non si vede, della parte che poi in cima porta al suicidio della persona, quindi che ovviamente di cui ufficialmente non si può incolpare nessuno, ma in verità il più delle volte i suicidi delle persone trans sono suicidi, diciamo, indotti dalla società e dall'ostilità della società. Ok, quindi micro abbiamo capito che è perché la situazione è piccola e sono una, due, massimo tre persone, un piccolo gruppo. Aggressioni siamo abituati a pensare che sia una cosa attiva, una cosa evidente, una cosa agita, anche con un certo trasporto. In verità possiamo essere aggressivi in tante altre maniere, escludendo oppure danneggiando la reputazione di una persona, per esempio. Quindi in questo caso non ci sembra che ci sia un'azione, ma c'è una conseguenza lo stesso. Si manifestano in tantissimi modi, abbiamo detto consapevoli e inconsapevoli. Tra consapevoli e inconsapevoli è stato dimostrato che le minoranze reagiscono e hanno meno danni a un'aggressione che è evidente, ma più grave magari, ma evidente. A lungo andare le conseguenze delle microaggressioni sono molto più dannose per la salute della persona, perché non riesce a individuarle, ma si sente aggredita, non riesce ad avere aiuto e non viene riconosciuta. Quindi i danni sono assolutamente notevoli. Può avvenire verbalmente o non verbalmente. Verbalmente ve ne ho fatto appena un esempio ora con Biden. Non verbalmente ora ve ne faccio un altro. Siamo sull'autobus, un autobus affollato. Sale una persona che individuiamo essere appartenente alla, diciamo, all'etnia Rom. Inconsapevolmente mettiamo la mano verso il portafogli, la borsa, ce la stringiamo addosso. Quella è una microaggressione non verbale di cui non siamo consapevoli perché è istintiva, ma se abbiamo attribuito a quella persona per la sua appartenenza, per il suo aspetto e la sua appartenenza, delle intenzioni delinquenziali. Tout court, così. Attraverso l'ambiente, vi faccio un esempio storico e poi ve ne faccio uno riguardante le persone trans, che appunto, se non contestualizzato, può sembrare effettivamente un'esagerazione. Storico, Ku Klux Klan, il Ku Klux Klan bruciava delle croci, in posti casuali anche. Era un reato? No. Era minaccioso? Sì. Vuol dire, attenzione, in questa zona, se sei di colore non sei benvenuto. Quindi questa è una microaggressione ambientale, ma ce ne sono poi tante altre. Se io vado a fare un colloquio di lavoro e vedo tra la dirigenza tutti uomini bianchi, sono una donna, sono una persona di colore, sono una persona trans, sono una persona LGBT, dico probabilmente io non arriverò mai a questi livelli. Quindi questo ambiente mi sta dicendo che c'è un tetto di vetro che io non riuscirò mai a sorpassare. Vengo alla microaggressione ambientale verso le persone trans. I cartelli delle toilette possono essere una microaggressione. Nessuno ne è colpevole, ovviamente, ma credo che tutti più o meno siano arrivati in Italia più o meno in maniera distorta, ovviamente, come sempre, tutta la questione dell'accesso ai servizi o agli spogliatoi per le persone trans. C'è tutta una letteratura anche che vi invito a leggere, per esempio in Stonebatch Blues viene riportato un esempio di questo, per cui la persona trans evita di andare in bagno perché altrimenti viene segnalata. Quindi quei cartelli per qualcuno, che per noi che sono, cioè, è una cosa ingenua, è normale, per qualcuno quei cartelli dicono non ci puoi andare. Quindi, o se ci vai a tuo rischio e pericolo, insomma, potresti anche in qualche modo essere ripreso, ripresa. Benissimo, andiamo un po' entriamo nel merito. Le microaggressioni hanno tantissime modalità di essere agite, come il microinsulto, e spesso appunto sono inconsci e trasmettono un messaggio offensivo, come appunto, torno a Biden, la frase sarebbe passata inosservata assolutamente a una mente che non è allenata a vedere quelle cose, perché erano tutti complimenti, eppure sotto era il classico l'insulto travestito da complimento, anche non voluto, in quel caso assolutamente non voluto, per cui io mi stupisco che tu sei pulito e intelligente. Ci sono stati anche dei fatti nelle università americane per cui il professore ha elogiato lo studente di colore per la sua acutezza, mostrandosi però molto sorpreso per la sua acutezza, magari in una disamina, ma dimostrandosi assolutamente sorpreso. E all'inizio non aveva capito il professore perché gli studenti lo avessero ripreso, perché diceva è una cosa positiva. Quindi in verità è un microinsulto. Vado avanti. Eccoci qua. Qui siamo proprio invece. Entriamo nel merito. Non sarei mai una vera donna a una donna trans. Questo è un insulto un po' meno velato, è già un pochino più consapevole in verità, però sottintende il fatto che ci sia una vera donna, un concetto di vera donna. Quindi culturalmente significano tante cose, per esempio avere una certa conformazione dei genitali, avere determinate caratteristiche, non sarai mai una vera donna. Altri microinsulti. Sei bisessuale, questo non rende il tuo partner insicuro? Questo cosa sottintende? Che sei infedele o che sei una persona promiscua? Quindi sono frasi apparentemente quasi innocue, ormai siamo anche abituati in verità a vedere queste, anche a individuarle per fortuna, queste frasi come in verità insultanti. Però è molto interessante andare a vedere la mentalità che c'è sotto e il fatto appunto che in alcuni casi non vengano registrate come insulti, perché la cultura egemone ci dice che non sono insulti, perché appunto bisessuale, non conosce, tra l'altro non conoscendone magari qualcuno, non credo qui, però non conoscendo alcune persone, alcuna parte di popolazione veramente il significato, appunto pensa che siano persone che dove coglio coglio, insomma, ecco. Altri esempi di microinsulti e microaggressione. Sei così bella per una persona trans, per una ragazza trans, quindi questo sottintende che in verità le persone trans sono brutte, o comunque non sono gradevoli, o comunque non corrispondono ai canoni di bellezza egemoni. Appunto, non direi mai che una volta eri una ragazza. Quindi questo proprio, come dire, per fortuna per te che corrispondi ai canoni di bellezza egemoni, perché veramente che bello, non sembra neanche che tu sia una ragazza. Vuol dire anche imporre a una minoranza dei canoni, quindi di mimetizzarsi, sì, è un invito sottinteso ad abbracciare e a conformarsi a determinati canoni, quindi devi sparire. In effetti, una delle strategie di coping delle minoranze, che però portano enormi danni a lungo termine, è proprio quella di adattarsi, di perdere la propria identità, di perdere magari anche la propria cultura di provenienza. Quindi, quando farai veramente la transizione? Questa è una frase che ci sentiamo dire tutti i giorni. Cosa vuol dire questo? Intanto che io ritengo che tu non risponda alla mia idea di persona trans e di transizione, quindi io ancora non somiglio a una persona cisgender, che è una persona che si identifica nel sesso assegnato alla nascita. Quindi sei una persona incompleta, ti sto dicendo. Sto dando un giudizio sostanzialmente. Con una domanda, io in verità sto esprimendo un giudizio. E ti sto dicendo anche che la transizione è da A a B e solo da A a B. Quindi addirittura ti sto imponendo sul tuo corpo dei canoni e delle cose che tu dovresti, secondo me, essere obbligato, obbligata a fare. Faccio un piccolo accenno storico in un certo senso e anche di trasfobia di Stato. Le persone trans fino a un decennio fa più o meno erano obbligate a operarsi alla riassegnazione del sesso, quindi non erano padrone, padroni e padrono del proprio corpo. E quindi questa frase sottintende esattamente quello: sei obbligato a fare una determinata cosa. Oppure c'è, per esempio, la sessualizzazione. Oh, devi uscire veramente con un sacco di ragazzi, perché sei una persona trans. In effetti le persone queer, trans, LGBT vengono continuamente sessualizzate e il loro corpo è più accessibile a un estraneo rispetto ad altri. Ci sono molte battaglie comuni e molti comportamenti che le persone LGBT subiscono e hanno battaglie comuni con il femminismo, quindi in verità le persone LGBT vengono ultimamente presentate come concorrenti nei diritti, quindi attenzione, se prendono diritti loro ne hai di meno tu. In verità, assolutamente, la cosa è intersezionale. E effettivamente una delle critiche che viene fatta al politicamente corretto, appunto, è la differenza tra diritti civili ma abbiamo trascurato i diritti dei lavoratori, manca di profondità, perché manca di un concetto molto semplice che ho imparato tra l'altro in un incontro sul decolonialismo, quindi io l'ho imparato dalle donne che si occupano di razzismo principalmente, che è quello di interlocking, ovvero le cose sono collegate, non le puoi scollegare, perché è molto più probabile che una persona trans o una persona di colore siano povere rispetto a una persona bianca. Una persona trans di colore è ancora più povera di una persona trans bianca. Ci sono studi bellissimi che fanno vedere come, per esempio, la comunità non binary abbia molto più accesso alla cultura e sia fatta principalmente da persone di pelle bianca. Quindi la profondità è importante e il concetto di interlocking è fondamentale, ma non è, noi usiamo l'intersezionalità, ma anche il concetto di interlocking, quindi che le cose sono collegate, quindi possono andare anche a cascata, è fondamentale per andare a contrastare le obiezioni a cui possiamo andare incontro. Le microinvalidazioni. L'ironia sul politicamente corretto è un'invalidazione, cioè io ti prendo in giro, quindi sminuisco questo strumento che hai di appunto intervenire sul linguaggio per renderlo meno ostile, non per rendere te più educato, che si spera che tu lo sia, ma per rendere meno ostile l'ambiente verso alcune persone, quindi democraticamente di renderlo accessibile a tutte le persone, è una microinvalidazione. Lì anche un po' più macro, però vuol dire proprio io sminuisco, in qualche modo lo nego. È come quando appunto la persona bianca dice per me non esistono colori. Stai negando tutta la struttura storica e sistemica di una oppressione. O faccio anche un altro esempio, poi arrivo anche alle persone trans. In azienda c'è la meritocrazia, quindi vuol dire sono fatti tuoi se come donna per esempio vieni considerata meno autorevole o se hai due lavori, non è colpa mia, sono affari tuoi, non ne voglio sapere niente. Questo è il messaggio che spesso c'è sotto, quindi è una microinvalidazione. In verità è un modo di, si chiama per esempio per il razzismo si chiama razzismo daltonico, io non vedo colori e quindi siamo a posto, siamo tutti uguali, non è vero, sto negando tutta una struttura storica e appunto sistemica di una oppressione. Tutte le vite sono importanti, che è stato coniato in risposta al Black Lives Matter. Quindi ecco, sei così complesso, questo ce lo sentiamo dire spessissimo, siamo così complessi, quindi vuol dire non ti capisco, non è colpa mia se non ti capisco, e quindi arrangiati sostanzialmente. È un modo di spostare, tra l'altro spostare da te a me il problema, cioè mi stai creando un problema, quindi non lo voglio avere questo problema. Questi sono gli esempi invece di microinvalidazione per quanto riguarda le persone trans, appunto è solo una fase, è una moda, è un'epidemia che viene dalla vicinanza con persone trans, che è se ci pensate questo è un discorso di odio, perché essere contagioso di qualcosa che tra l'altro si presenta come negativo, questo insomma potremmo parlarne. Appunto, politica correct, buonismo, dittatura del pensiero unico è stato abbondantemente trattato in maniera eccellente prima di me. È un problema personale, appunto. Sei complesso, non mi interessa, non ho tempo, sono affari tuoi, se sei complesso, torna quando riuscirai a spiegarti meglio. Rifiutarsi di utilizzare i pronomi richiesti dalla persona, quindi intanto vederlo come una richiesta, un'imposizione, vuol dire molte cose. Vuol dire intanto che sono io dall'esterno che ho il potere di determinare cosa sei tu, cosa, chi sei tu. Due, non mi interessa assolutamente niente di metterti a tuo agio. Tre, ti sto dicendo che ho ostilità nei tuoi confronti. Quindi non sono delle vere e proprie aggressioni come dire, da manuale, non sono ovviamente dei reati, eppure fanno i loro danni. Chiedere il vero nome della persona, questo mi è capitato per 3 giorni, una persona a un festival mi ha letteralmente perseguitato per sapere il mio vero nome, tra l'altro, che forse voleva dire il nome legale, E questo mette a disagio, perché appunto vero vuol dire che quello che io ho scelto liberamente e autodeterminandomi non è importante, non è quello vero è quello dato da qualcun altro. Quindi le mie scelte, la mia identità, il mio modo di essere ovviamente non sono importanti. Eccoci qua, impatto delle micro aggressioni alla percezione di essere differenti, l'esclusione, lo stigma, e a lungo andare gli studi ci dicono che abbiamo delle pesanti ripercussioni sulla salute mentale. E questo, tra l'altro, viene preso al volo da chi vuole mantenere il discorso egemone, perché dice: se sei trans sei una persona malata. Non sei malato perché magari l'ostilità della società ti ha portato a determinate conseguenze. No, è insito nell'essere in un determinato modo. Cosa possiamo fare? Le microaffermazioni. Torno all'inizio, vado a concludere. Torno all'inizio, appunto, ci sono problemi più importanti, eccetera. Quindi quella è una microaggressione, vuol dire la tua cosa, la tua istanza non è importante. Spostiamoci verso altro. So pensare due cose alla volta, quindi ti stoppo subito, perché è importante farlo in quel momento. Prima di concludere, poi vorrei fare un accenno, infatti, sulle persone coinvolte in una microaggressione, non sono solo due in verità. Quindi si stoppa subito l'affermazione, possibilmente in maniera non aggressiva e non ingaggiante con l'altra persona, e si esprime un altro punto di vista. Quindi si apre, in verità si apre agli angoli scuri che quella persona non vedeva. Allora, le persone che sono coinvolte nelle microaggressioni sono principalmente due, ovviamente, è chi agisce e chi subisce. Ma è estremamente importante creare una società che sia in grado di individuare le microaggressioni, perché i testimoni e le persone che intervengono sono fondamentali. Perché chi agisce una microaggressione inconsapevole, ok, sarà magari una persona più propensa, tra l'altro, a rendersi consapevole di questo e quindi a cambiare lessico, comportamenti e a vedere determinate cose. Se la microaggressione invece è volontaria, la persona che la agisce conta tantissimo sul fatto che nessuno in qualche modo la contrasterà, perché la sua percezione è di appartenere a un discorso egemone, quindi che l'ambiente intorno rafforzerà la sua aggressione, o comunque non opporrà nessun tipo di resistenza o di appunto o di intervento. Invece è importante appunto che testimoni e persone presenti possano anche intervenire, perché molto spesso la vittima o non interviene, se ne accorge dopo di essere stata vittima di una microaggressione, oppure reagisce ma viene invalidata sia dall'aggressore, dalla persona che aggredisce, sia dall'intorno che appunto non nota nulla, non fa nulla e non fa nessun appunto. Quindi perché appunto il linguaggio è importante esattamente per questo, perché stiamo esprimendo da una parte una differenza, ma dall'altra parte creiamo una consapevolezza di privilegio e di discorso egemone. Questo ci fa male, sì, ci fa male, ed è per questo che dalla televisione urlano che li stiamo silenziando sostanzialmente. Grazie. Davvero grazie anche per questo ricco intervento che ha messo ben in luce come attraverso le parole si agisce violenza, non solo quella immediatamente riconoscibile, ma una violenza diffusa, no? Cosiddetta bassa intensità, che è pervasiva, ci accompagna quotidianamente, è difficile da riconoscere e che verso la quale invece dovremmo allenare lo sguardo, la nostra consapevolezza, proprio per riuscire a disarticolarla e arginarla. E anche quando non siamo noi ad agirla, magari appunto in modo inconsapevole, però agire in quell'ambiente, prendere la parola e prendere una posizione.